Ciao, sono un bambino vivace, molto vivace, anzi vivacissimo. Vi canterò un rap piccante, molto piccante, anzi mi chiamano Tempesta, ma non comido guai, sono pieno di energia e non mi fermo mai. Vero Peperino, per gli amici Pep. Insegnaci a cantare questo rap. La colazione brucia, oh yeah. Nel cappuccino bollente, cosa c'è? Salsiccia piccante, che. Mi dà voce per cantare questo rap del Pep. Rosso di sera, rosso di mattina, peperoncina, lo metti nel mulino. Quando vedo rosso, ne mangio più non posso, mi viene l'appetito con il rap. Non sono messicano, sudamericano, sono tutto Peppe, faccio rap in italiano. Resto senza fiato, il piccante, invitante, che sapore bruciante, cioccolato piccante, mi dà voce per cantare questo rap del Pep. Rosso di sera, rosso di mattina, quando vedo rosso ne mangio più non posso, mi viene l'appetito con il rap del Pep. Con un cuore che ha un eccesso di felicità, ta, ta. Il peperoncino fa bene al contadino, fa bene alla maestra. Il peperoncino, che benedizione, al vigile va bene. Lo mangio un po' la mamma. Lo mangio mia mamma. Io lo mangio sempre, mi fa cantare bene, diventa trascinante. La musica piccante.